Okay, prova. Ora. Ebbè, Antonè. Ebbè, Marco, dimmi. Provando apparati. Peccato sì. E tu cosa stai facendo di bello? No, stavo mettendo a posto in cucina. Poi ho sentito un bip, doppio. Mi sembravi tu, ma non ero sicuro. Ah, ok, dai. Doppio, vabbè, uno, io. Oh, Marco. C'è una talibera entrato. No, Antonio, sono due toni. Fa tarà, tarà. Sì, ma la parecchio bello è il tuo, già lo conosci. Quindi a un certo punto è come scottomila questo. Natali, vai. Ascolta, ma impazziti sono quelli della live. Stavo cercando un roadmetter come quello tuo, come si chiama il tuo? Sai che non me lo ricordo, devo andare a prenderlo. Se non c'è qualcuno che te lo dice prima, vado a prenderlo. Ok. Proprio questo. Guarda, io ti sto dicendo una delle tante. Antonedu. Quello che stai cercando tu si chiama Pisello Number One. Cosa si chiama? Pisello Number One. Ah, cosa che il Pisello Number One ce l'ho io. Già lo so, appunto per quello. Allora, oh, dimmi. Allora, Daiwa CN901, quindi CN Cagliari Napoli 901, questa è la versione non HP, questa è da soli 2 kW. Poi c'è l'HP che è da fino a 3 kW PEP. Ma lo sai quanto lo voglio? Ma che cazzo, questi sono matti? Con quei soldi mi piglio roba di apparato. Guarda, io quando l'ho preso credo che venisse intorno ai un po' meno di, no, forse 150 euro, adesso te la butto lì, decina più, decina meno. Il modello HP costava ancora di più, però a me di 3 kW, da dove mi ripoglio 3 kW, ma manco l'impianto di casa 3 kW della luce. Quanto ne voglio? Questi assurdi! Ma quanto? Se prima costava 150 euro, quanto costa adesso? Sulle 200! 100 euro, là! Il cacchio! Te l'ho detto, io questo l'ho preso pre-Covid, è aumentato tutto la tariffa. Guarda che andare adesso dai discount, se volete andare da Conad, in proporzione naturalmente anche Conad è più caro, capito? È aumentato tutto, tutto quanto, e non si può più comprare niente. Infatti. Io pensa che non mi ricordavo nemmeno il nome da quanto lo sto usando. Io lo uso raramente, ogni tanto, per vedere se l'impianto... Chi è che si sta attrappando il cranio? Dicevo, lo sentite? Ascolta, ti volevo dire una cosa, visto quegli apparecchi che stanno venendo adesso, che in pratica ci vuole la scheda SIM, in pratica parli con chiunque, dove vuoi e come vuoi, quanto vengono quelle? Sì, devi specificare meglio, Antonè, a parte che non sento bene che con questo trappano. Allora, ti spiego, c'è un apparato che stanno vendendo in pratica, che fa in qualsiasi, cioè puoi parlare con chiunque in qualsiasi momento, cioè in Germania, Francia, quello che è, basta solamente una SIM card, basta, capito? Come quella del telefono. Ah, ce l'ho, si chiama smartphone. Guarda, saranno quelle radio che praticamente è una finta radio, ma in realtà è come se fosse Zello, come se fosse CB Talk, però non è una radio, Antonè, e allora tanto vale che usi Zello e parli con tutto il mondo. Non lo so, io l'ho visto ieri, la verità, questa storia qua l'ho vista ieri, a un certo punto ho detto, mi è sembrata un po' strana, parli con chiunque, per quello non uso Zello, uso questo, cosa ti posso dire? quello della Midland e faccio prima. E hanno un nome particolare, com'era? IP Radio no, quelle sono le IP Cam. Natalie, ti sovviene? Guarda, la marca è tipo Enrico. Negativo, non me ne intendo di queste cose. Sì, perché sono radio, io non sono radio, sono praticamente dentro c'è uno smartphone a tutti gli effetti, c'è la buccia della radio, però è uno smartphone, Antonè. E allora ce l'hai già tu lo smartphone, basta avere l'applicazione giusta e a parte che quello è un po' per usi radio, come dire, amatoriali, ci vogliono password di accesso per i canali amatoriali, ovviamente che noi non possiamo usare, ci mancherebbe. Boh, non lo so, comunque c'è scritto in pratica che metti questa, cioè in pratica puoi parlare tranquillamente con tutto il mondo, il discorso è questo, non ha scritto niente della scheda, quella che sto dicendo io, è uscita da poco, quindi a un certo punto puoi parlare con tutto il mondo, in pratica c'è il cellulare, hai capito? Prendi il cellulare e parli con chi cazzo vuoi, tutto il mondo, in diretta, il discorso è quello, tutto lì, tipo come si dice, quello che stava facendo la Midi, la mentale uguale. Ega. Ascoltate, questo è un apparato che fermo mesi, veramente mesi, trovate qualche difetto, ditemi come va, questo è la Linco. Va benissimo, a voglia. Bisogna sempre accendere gli apparecchi, a me per tenerlo un anno e mezzo fermo mi si è sfacciato il 4,40, hai capito? E non sono riuscito a aggiustarlo. Lo sapevi, cazzo, lo sai i difetti che c'hanno di 4,40, lo sapevi anche tu? Sì, vabbè. L'ho dato a pezzi di ricambio. L'ho dato. L'hai dato? Quanto ci hai fatto? 200 l'hai fatto almeno? Me lo sono sistemato da solo. Il mio è, come ti posso dire, il mio è un incrocio tra un cocker e un bulldozer, il discorso è quello lì, hai capito? Ci hanno messo mischiato schede eccetera eccetera e quindi mi sono dovuto arrangiare da solo, il discorso è quello. Però l'apparato mio l'ho messo a posto, questo è poco ma sicuro, hai capito? L'hanno sistemato tanto per funzionare, il discorso è quello, hai capito? Sì, vabbè, io l'ho dato a sistemarlo, ma non mi sono venuti a capo. Vabbè, l'ho dato a un amico. Scusa il telefono, Antonio. Va bene, ok, non c'è problema. Comunque sia. Vabbè, a volte ci sono... Cioè, a volte... ci sono i problemi, pazienza, cosa ti posso fare? Antonio, aspetta che mi chiama mamma. E io sono qua, non ti preoccupare. Hola. No. Sui. Cosa stai combinando? Buonasera. Ehi. schifo, anche tu. Mica ti ho mandato la foto dei calamari che ha preso Graziano, le hai viste su WhatsApp? No, non le ho viste, bravo, c'ho il computer spento. Ti mandano, gatto, lo sai, se ti dico cosa mi è successo, non mi credi. Sai cosa ti è successo? Mi sono commesso. Sono andato prima a Platamona, no, a vedere se c'è Papa Bruno a fare due ghiacciari, così gli sci un po'. Ma cosa cazzo di essere senza sci, ti rompire il male. Cazzo, e poi mi è stato a capo, giù che tu Bruno non vera, e mi è stato a capo di... di praticamente andare al campo di tiro a trovare a Gianfranco e non mi so cubezza che hanno giocato a Turrani. Che hai fatto a perderti? Ma te lo ricordavi più dov'era? No, mi sono perso perché ho sbagliato strada. E poi l'hai trovato? No, no, ero pure senza nappa, taggato. Manco male che ci ha fatto i fornitori, i stradoni. E ho fatto il pieno lì. Cazzo, ti sono potuto, non mi è mai successa una cosa del genere. Hanno fatto delle deviazioni, per quello che ho sbagliato strada e ho preso la strada a Pezzentino. Mi sono uscito dalla Gocci, cazzo, me ne sono curato a Sassari. Ma ho sbagliato strada perché dovevo entrare in Pozzuddorra io, ma farla più breve la situazione. Invece ho giubilato a Sassari e vedi questa strada sempre 131, cazzo, ma Gesù Cristo mio, meglio la morte. Vabbè, succede, dai. Dai, l'importante è che si riesce a risolvere. Il problema è quello, ce l'è. Sì, infatti, adesso metto l'indirizzo nel navigatore e quando devo andare mi faccio dare l'indirizzo da Gianfranco e lo metto nel navigatore. Almeno non sbagli. Che cazzo, non so pure se da Ciappallo. Ma dove rimane Crucca? La Crucca è. Oh, nella strada dei due mari. Alla strada dei due mari, ho capito dov'è. Sì, rimane. Ma cos'è all'interno? Praticamente. Allora, andando da Bocciodora sulla destra, c'è anche un agriturismo, c'è lì. E c'è il campo di tiro a volo e più il campo dove sparevamo noi. Ah, ho capito, sì, dov'è? Ha già compreso, non è? È una strada un po', chi mi di belli, E chi invece non la conosce di me, ho capito dov'è già. C'è un agriturismo sulla destra, poi. Sulla destra. Prima c'è il campo di tiro e poi l'agriturismo. Sì, già lo so, lo facevo io con l'agriturismo. No. Un po' di anni fa. Quindi sai dov'è la situazione? La conosco bene questa Garriga, è proprio andato dei volti. È proprio all'interno, proprio, è una strada all'interno praticamente. È all'interno, e allora? Ma vuoi più alla Crucca Gianfranco? Già è un anno che se ne è andato. Ho capito dov'è. Io mi sono la conosce di Betti, è facile perdere. Non è che ti Betti, però ci sono delle deviazioni, capisci? Ti prega per questo. Alla vita. Se mi sono tutti i bari e uri che mi... Quella strada lì ho preso, ho sbagliato, cazzo, ho preso quella per Tintino. Invece dovevo pigliare chissà Balghero. Mi pare che tu vuoi andare a Tintino, vuoi andare... Andiamo bene, andiamo. È invagliato Garriga, è invagliato un'altra lì. A qua sì. Mai mi è successo una cosa del genere, gatto. Cosa vi va a dire a Sintino? Dovevo prendere la strada per Alghero, così andavo nella strada dei due mari, tranquillo, e la ciappavo. Invece, gatto, sono vicino in casino di Montebello. Vabbè, alla prossima volta non invagli. Sì, ma ho sbagliato perché ci sono tante deviazioni, non era così la strada, la Porta Torre, sei capito là? Che prima mi pare che faravo da bancari io. Perché che adesso è tutto cambiato, hanno cambiato tutte le strade, capito? Sono sempre modificanti, vendi. Infatti, è successo un macello, sussidi. E te credo. Ma che vuoi che ti dica? E tu cosa hai fatto, Murano? Io ho fatto leggermente schifo. Non hai fatto nulla, praticamente non ti senti bene e sei rimasto a casa così. Non sono uscito, no, già sto meglio, però non sono voluto uscire, anche perché febbre non ne ho, capito? Però non sono uscito, ho detto, ma riesco e mi frega. E invece adesso sto bene, meglio così, dai. È una roba leggera. E infatti, meglio così. Guarda, riesco, poi mi frega, capito? Questo tempo non se ne comprende nulla. Sì, infatti. Capito qual è la questione. C'è stato un break avanti con la buonasera. Buonasera anche a voi. Ehi, ciao Antonio, buonasera. Antonio, da questa parte, via, che sei un dormito, va, mamma mia. Così eri? Addormentato. Allora te ne hai dato la radio, sicuramente. No, ragazzi, ero felicemente addormentato. Ciao, Antoni. Ero felicemente addormentato e basta, non sono svegliato da solo. A proposito Nathalie, guarda che ho fatto la spezzone dell'MC60, come sta uscendo questo microfono? Scendi. Ma domani lì Barusì? Adesso vedo, dai, domani mattina. Adesso di sì. Ok, va bene. Fammi sapere al limite. Ciao a tu, Antonio, come mi ascolti? Gli ho fatto lo spezzone da lì perché c'era lo spezzone che era interrotto e gli ho cambiato tutto il filo, capito? Una bomba, tranquillo, una bomba segua. Sì, perché c'era lo spezzone di questo microfono, ogni tanto mi dico di accogliere, dovevo muovere il filo per uscire. Adesso va bene comunque, adesso che sta andando bene. Sì, sì, tutto ok. Tutto ok, andare. Una brumita, vabbè, sono rientrato alle due di notte, ero a Gattellini due giorni, non sono tornato lì, ho dormito lì, e poi sono rientrato a sassa di ieri notte. E vabbè, altro, riportate bisogno di lavaggio da voi a Futellini. E portate bisogno di irrigation ogni mese. Ja, ti appagano io. Esita, va poco. Che dobbiamo fare tutto l'allestimento per Ligabue, per Rega e per Mec. Più tragico quello di Ligabue, va vero? Ho capito. Riprende Natali. Natali, ti voglio fare sentire quel microfono che ho modificato, quella cosa che ti avevo detto. Aspetta un attimo, che mi dico come va. E poi Natali, come sta Klaus? Cosa, tu? No, gli ho chiesto come sta Volcano. Sì, già sta migliorando. Cornino, adesso stateci attenti e non vada più in contatto con nessun tipo di cane. Sennò è peggio andare a Buggio. Lo so. Adesso gli guarisce la ferita. Le ferite, due ferite. Ne ha già un buco sulla spalla e nel petto, come l'ha morsicato quel bastardo del cane. Ma si passa in corso Trinità, cazzo, ha finito di campare sul cane e basta. Vai tu, provi a passare col cane in corso Trinità. Ha detto si rubigliava a Puntiglia. Si rubigliava a Puntiglia. Da voi la consiglio, vai tu. Anche l'ignorante, perché insomma, a casa dovrà anche chiedere scusa. Vabbè che è una braccia del genere, non sa. Va a chiedere scusa e essere un po' mortificato. E pigliare un cane, grazie così. Almeno non vuoi dire, a me di una bella sussa, in modo che non lo faccia mai più. Se no ti arrangiamo come è possibile. Che sono andati, muori dei cani, dico, ma perché cazzo non ti ritiri? Ma perché non ti ritiri? Cioè, chi c'ha niente, non si. Cioè, pure chi si conosce, chi si cose, che male succede a te. Cioè, non parli che non parli la maniera di gatto con chi si cani, ma io, ma prima spammati tu, poi pensa all'animale. Sì, ma cosa vuoi ti dici anche? Purtroppo, cioè questa gente è così. Se la prendiamo a puntini e passava apposta a farmi musica al cane, però io ho la pistola e glielo sparo, se lui passa qua ha finito. Sono la parte di carriera, per carità, che schifo. Non si deve precipitare, i rugani mio e minori, e adesso mi sono quasi musicata da usuio, non esiste. Avanti di galera, brutta avanti di galera. Non va bene, non c'è, non vado più mangiare, ragazzi, però sono con rugani, insomma. Ma vai, ritira, di vai. Così chiedere, chissà chi c'ha di sempre, chissà la crociata. Chi c'ha di sempre in chi mi... la stazione, quindi li hanno preso perché è in condizioni pietose l'animale. Allora, da accusare di chi ti ha detto, ma cosa stai, ma cosa si sente, ha detto, ma cosa dini fai di questo animale così, ho detto, ma che non stai più bene, io non posso stare senza la parte di pesate, gli ho detto. Ma non vedi che condizioni sei, cazzo ne ho più ne ha giudito poco. Ha detto, ma non vedi che si entra la casa di Vicente Arugano e Arugoso. Ha detto, ma chi non ne ha finito? Perché non ne ha finisci queste stronzate, gli ho detto. Gli ho detto in faccia a me. Sì, lo so, ma è purtroppo. Sono guasti di testa, non capisco, non è. Per carità, capisco stare in mezzo alla mondetta, guarda che la cosa. Cioè, chissà così che invece di avere un pezzo di casa preferisco stare così a rompere scatole l'uno all'altro. Ma vai, smettiamola, vai, c'è gente brutta qua. Che cosa vuoi ci picchia? Purtroppo la gente è un avanzo di galera quello, mi capito là. Ah vai, per carità, ma cioè boh, veramente che... Non perché non musichetta e non sa nulla, se veramente interviene una pattuglia, una cosa, non sa nulla. No, non è mio, no, quello cane viso con Rugani, per carità, va. E così dici che non è l'usuio Rugani. La prima volta che mi ha musicato 1500 euro mi ha cucciato, compreso che Rugani non era l'usuio. Però questa volta sono andate anche le guardie zuffili a casa sua. Lo so, lo so. Sì, no, ma fagli vedere che non lo dico. E lui l'ho minacciato, ma non ci passare più qua, perché sennò te lo sparo il cane. Sì, quella è la stanchezza, Antucca. Pare così, ma pure se sei giovane di stracca. C'ha tutti chi sono lavora di casa. Lo so. Io va, lui è signora Ivanna. Sì, tappini di travaglio. Meglio così che ci sia lavoro, ma cosa non verrà nulla. E prima era abituato, ero sempre così. Se più travagliente, quindi mi faceva meno. Mi campava almeno, adesso un po'. Sì, ne hai risentito adesso. Poi sono stato, non lo so, sono stato andato in un altro posto, vedi? Ma comunque già. Da provvisare un fatto. E cosa vuoi Antu? Praticamente anche io cazzo facevo direttamente andare a travagliare. Dallo divertimento andare a travagliare senza dormire nuda quando ero giovane. Ah va, cazzo arriva di nubi e mi devo cucare i frutta. A chi non ve la posso vivere? Lo so, lo so. Scusa da regalo male, no? Che da voi, non ha contenuto a me. Ehi, sicuro è vero, io ero grido. Quando ero giovane, io buco di gestire un mezzo. Ma va, non vi racconto più. E Franco? Franco, ad guarda il microfono adesso. Ma non è entrato più. Non dico la maggior parte. Magari si è perso. Lo provo io allora. Avanti. Buonasera, ribuonasera a tutti. Sto usando per la prima volta l'adattatore microfonico da 6 pin a 4 pin e ho messo l'MB più 5 sulla Linco, non l'avevo mai provato prima perché credevo non fosse compatibile l'adattatore. Come sto uscendo in radio? Stai uscendo bene Marco, no problem. Ma non basino. Però lì, 1, 2, 3. Una bomba! Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Non ci credo, stavo parlando sul canale 9. Lo sai che se n'è andato sul 9 si è apparato? Allora, ho detto non vedo picchi, ho il microfono a 7 ma non vedo picchi, a meno che fischiando. Adesso li vedo, vabbè grazie. Ma la radio è bassa, è normale, è alta, com'è? È cupa, è acuta, com'è? È buona la radio Marco, va benissimo. Il volume di russo va bene. Capito, per la mia zona, poi non so gli altri, io ti ascolto bene. Eia, no, dicevo prima che l'adattatore, siccome questo era l'adattatore microfonico del CRT 9009, non sapevo se andasse bene su questo apparato e pare che la piedinatura sia la stessa, uguale, e quindi è la prima volta che uso il più 5 su questo apparato. Vabbè, adesso che so che funziona lo posso anche togliere. Riprendi a tu. Quindi Natali, va bene questo microfono, com'è? Una bomba, Ciao Marco, buonasera. Ciao Fra, tutti provando i microfoni. Provano i microfoni, MB più 5 su Alinco, 1, 2, 3. Va bene, qua sui 9.20, diciamo radio Super 5 va benissimo. Com'è questa radio Marco, va bene? Potente e prepotente, sì, va bene. Ok, dai, QSL, riprendi Natali. Magari un po' rimbombante, Fra, forse è l'effetto ambiente. Rimbombante perché c'è una camera, diciamo che è una camera grande, forse fa ribombo anche per quello, tutto qua. Il segnale com'è, va bene? Vabbè, questo è a LED fondo scala, è inutile dirlo, tutti fondo scala siete, tutti, tu Antonio, Natalino, tutti quelli sassari qua arrivano a fondo scala a questo emitter, infatti non è che serva molto, vabbè. Comunque questo che con le lancette e cose tu sei a fondo scala, sei uguale come tutti gli altri. Tutti a fondo scala lo stesso qua. Questo è un MB4 con lo spezzone adattato all'emission 5555. Come mai hai l'adattatore microfonico? Non era già a 4 poli, no? Sì, però c'ha il cavo troppo corto per non toccare i contatti sui, gli ho fatto uno spezzone, così è più lungo, siccome ce l'ho al secondo piano e non ci arrivava il microfono, capito? No vabbè, adesso sono liscio, siccome sul canale alti volevo provare, era attaccato, adesso sono 4 watt. Va bene, riprendete, vai Franco. QSL, dai, riprendo io. Quindi Natali, va bene, questa modifica è stata fatta. Figlia, andrà bene Meda. La mia com'è? È un po' di casino. Già va bene la radio tua. C'è la preamplificazione, va benissimo. Sì, Natali, c'hai una meravigliosa modulazione. Perché è proprio la voce tipo effetto presenza, è limpida, capito, con quell'apparato e quel microfono, mentre Franco rimbombante, è buono, è forte, però rimbombante per via detto della stanza. Io ce l'ho a metà, l'MB4, capito, ce l'ho a metà, non è che l'ho alzato più di tanto, non mi piace la radio rimbombante, capito, se no anche questo ce lo metto al massimo e è troppo forte, con la modifica che gli ho fatto è troppo forte, se no è già troppo sensibile così. Sì, che poi da te il problema non è il rimbombo, è la TV, è anche Concetta quando urla, è il cane. Sì, io mi sovramudula se urla. Eia, mamma mia, quanti soldi fermi però, Oh, me l'ha fatto di nuovo però, vedi? È passato al 9 mentre modulavo. E magari ti fa contatto il microfono e ti fa spostare il canale. Allora, siccome il mic originale c'ha delle resistenze, non so, per i canali alti e bassi, no? Up down, un pochino fa interferenza, tra virgolette, come dire, c'è qualche valore che lo interpreta come che stessi cambiando canale, capito? Vediamo se a 10 come va. Aspetta, fermi tutti. Parlando piano sempre. Se si sente rumore di fondo, roba del genere, vedete un po', così a 10 il mic, però la batteria è un po'. Ma non si sente nulla, dai. Qua è silenzioso, Cioè qua c'è silenzio, non c'è voluto, mamma c'è la TV bassa. Ok, va bene. No, c'è andata lì, non sono fermi. Tutti i baracchini inutilizzati. Va bene, abbiamo già parlato, no? Prova l'altro, Natali, prova a vedere come va. Marco, com'è questa radio? Saturissima. Satura? Sì, c'è BFM. Ce l'avevo troppo alta la situazione. Troppo, eri overdrive. Sì, adesso va meglio. Adesso è basso. Poco fa ne avevo qualcosa come 100. Eia, però 100 vedi sporchi in AM, troppi, forse il finale, chissà se gli è stata fatta la modifica dei watt lì. Si stanno ammazzando i finali praticamente. Per esempio nel K era nudo e crudo, cioè il K era con i watt originali, in AM ne dava credo una quarantina, forse 50 modulati, e qualcuno gli faceva la modifica per averne fino a 100, il problema è che stai ammazzando i finali, poi si surriscaldano, cioè più di tanto non azzarderei, dai. Riprendi Antonio. Quella parecchia non scende da 50 watt, sono dei più le quasi male, a meno che non ci abbiano i finali modificati, allora è diverso. Questo è quello che uso sempre in banda laterale, capito? Non lo uso mai qua. E mi ero dimenticato di abbassare tutto. Eia. No, adesso la radio è buona. Io sempre parlo di limpidezza, di chiarezza, e non mi interessa tanto l'amplificazione quanto la chiarezza. Aspetta che poi riabbasso qua. Comunque lo tolgo, dai, questo MV5 l'ho già provato, qua funziona e se lo tolgo. Riprendi Franco, cambio anche apparato. QSL, sì, va bene Natali, comunque con la modulazione, così va perfetto, sei perfetto. Va la grande. E questo è l'altro, anche se non riesco a abbassarlo di più di così. Vabbè, è a minimo mi così. Sai che già va bene. Hai visto quanto è forte quel microfono? Questo qui è la... già l'ho visto, questa è la V508. Quando l'attacco l'MC60, l'intendi rimattracchi lunghissimo. Molto meglio, adattando a quello va molto meglio, secondo me anche la modulazione è meglio di questa. Anche questo va bene, però bisogna provarci l'altro a vedere come va, capito? Se è uguale come modulazione. Adesso proviamo ad adattarlo questo qui. E così vediamo un po' come va. Questo è la V508, capito? Perché se andava meglio, siccome questo qui il microfono non mi piace, se andava bene il 60 era meglio. A me piace quel microfono, il 60 è molto superiore a quello. E non lo so come va, non l'ho mai provato qua. Sì, va bene, di provare l'MC60 e vedere un po' come va con l'MC60. E infatti così faremo. Ma guarda, no, comunque la radio va bene, ha una bella modulazione di lusso, alla grande. E non mi piacciono i comandi di questo qui, poi chi sa fare di LRG45, cucciga. A meno che non gli cambio il basamento, gli metto il circuito su un altro microfono e lo faccio diverso, là. Ma cosa vendi dirlo? Io me lo vuoi far sentire su quel microfono. A me non mi piace, neanche gli attacchi che c'avevo, gli attacchi schifosi, per carità. Non mi piace come il microfono. Da quanti mio? Neanche a me. Se riesco ad adattare il 60 dovrei uscire alla grande. Allora a me non mi piace, prima per una cosa, per quegli attacchi schifosi che c'ha, quegli spinotti che fanno cagare, diciamo così. A me piacciono gli spinotti quelli normali, tipo l'MC60, capito? Infatti, anche i comandi del microfono, il PTT non mi piace qua. Cata, quasi falso contatto, un bel di voci, babba via. Quando attacco l'MC60 non mi sembrerà vero. Speriamo che esca bene di radio. Ma dovrebbe andare alla grande. Secondo me funziona benissimo con l'MC. Ma lo proveremo, là. Andiamo a provarlo, ho capito. Ma ce lo vorrei avere un altro spezzone. Devo cercarlo. Perché se gli fai la modifica dello spezzone, va bene lo stesso, capito? Gli sposti quei due fili là, da una parte e dall'altra, e risolve il problema. Ehi, già lo so, ma tocca avere una femmina a 8 puli, capito? Invece io gli attacco questo qui, il filo. E non devo avere nessuna femmina volante, questo è già lungo, è di lusso. Quello arricciolato, l'originale, ce l'ho, quello non lo toccano. Gli lascio l'attacco suo. Ma infatti se c'è la prolunga, si fa la modifica sulla prolunga, senza toccare l'altro, capito? Tanto sono due fili da invertire, uno da una parte e uno dall'altra. Hai risolto il problema. E così avrà già fatto. Ma cosa, che c'è originale, raggio, e non lo do. A chi si da voi mi piglio un apparato di quella marca, tanto per dire, almeno ce l'ho. Sì, è così in definitiva. Marco, riprendi. Che andava bene, ecco. Questo qua, mi ho rifatto lo spezzone, cioè il filo proprio bello, suo, l'ho matto. E gliel'ho rifatto tutto nuovo, capito? Hai visto che va bene adesso. Io dove andare. E il mio stesso è bello grosso, è di lusso come cavo, questo che ho messo nell'MC60. Sono migliori quelli lì, vanno meglio quei cavi lì, capito? E non si rovinano. Infatti, non vedo l'ora che sia, almeno me lo uso. Sì, io non devo averci un figlio, va. E chi ci rubo un mal riposo, in pensione non me lo posso indinare. Ci rubo qualcuno. Se me l'avrei venduto la tariffa, tanto già te ne vai, va. Stanno sempre problemi con i microfoni, ricordatelo. Questi microfoni con cui sorriceva, sono sempre la rottura di palle. E infatti, adesso me lo vendo. Così siamo tanto c'ho anche il Turner qua fermo. Con cosa lo uso? Se apparatino neo? In definitiva non te ne vai nulla l'apparato, basta un apparecchio e buh, è inutile di andare dentro e ne tratti sempre uno. Il problema che dico io è sempre quello, non puoi usare le due apparecchi, puoi accenderne uno, poi accendi l'altro e spegni quello, giusto per non rovinarsi. Basta la radio e fai tutto, cosa stai lì. E questo per esempio qua non lo uso mai, questo qui. Uso l'altro per qua, per questo canale. Gaiglia, in definitiva sì. Io ho chiamato Corolla che forse mi dà quel Superstar 3009, però è il modello vecchio, capito? Però è tutto graffiato, con la mascherina graffiata, il guffato. Vabbè, me lo posso dare. Me lo dice che funziona. Io vi raggio, nuovo, vaggio tutto, frontalino, li dappi, nuovi. Se era nuovo, non mi l'avevo comprato nuovo da negozio, l'avevo comprato, mi che mi si è cremato, e no, sono riuscito a comprare. E questi sono due che ne ramo. Allora, quello là è il 2009, però è il modello vecchio, capito? È il mio, non ha manco la scheda del 2009 vecchio. Perché dice che è la scheda di un Cobra, ormai da un po' come, tutto camuffato, rame, Gesù Cristo mio. E comunque sia che quel 3009, che c'è, cioè, quel Superstar 3009, è il modello vecchio, capito? Però le mascherine, le manopole sono tutte carte precise, che si fa tu, anche i tappi sono uguali. Lo so, io ce li ho qua tutti nuovi, c'ho la stampa, c'ho tutto. Quando si a bucarlo, Guido, chi ci tirò un rampemmo, rudelaio, e ne capemmo tutta la roba che segue. Vai a fare. No, ecco perché già ci sono, ma dite che sono tutti graffiati, anche la mascherina è graffiata. Che dove la via al fuoco prima, chissà il radio. Ma tu li funziona, e ancora lo so che funziona, è un bigliale provarlo. A che mi pare non funzionava, chissà parecchio, veniva a bruciati, ma non mi vorrei sbagliare se quello che c'aveva nell'alfetta. E cosa ne so? Non lo so. E finali sono buoni i miei, quelli che ho in quello lì. Solo che fa quell'innesco e non siamo riusciti a eliminarlo. Non per nulla di va. Il modulatore non è quello a pecine come ce l'aveva il 3009, è diverso, è piccolino, è tutto diverso, la scheda è diversa. Il modulatore c'ha quello piccolino, quel trasformatore piccolo, lui. Questo è grande, il trasformatore del Superstar 3009, però io sto parlando del praticamente del vecchio modello. E io nuovo che va giù, la scheda è di un Cobra, non è neanche del 3009, figura di un Pobu. Cazzo, a farlo omologato hanno già mandato tutto, hanno fatto un macello. E comunque c'è gente che ce l'aveva con la radio, dice che funzionavano bene. Il modello mio no, sarà stato con la scheda del 3009 originale, questo no, questo c'ha la scheda di un Cobra, fra, non è manco la sua la scheda, poi c'ha tutta una riduccia, se tu la vedi come è inserita, è una riduccia, io non l'avevo manco vista, me l'ha fatta lotta di Sabassona, che l'hanno inserita storta. E tutti li hanno fatti così, e sono tutti facciati, dice Apparicci. Boh, io non so cosa dite di chissà cosa, non l'ho visto, non so neanche, io ho visto quello là, ma è fatto, c'è il circuito tipo il 4005 della Tornado, il Tornado Roma Tese, lo stesso circuito si può dire perché è uguale, è appiccicato. Questa è diversa invece la scheda, è diversa, ma venuta di là, poi di robot subito, tanti abissi, e ti avvisi subito di tutti i componenti che sono diversi. Figurati, sicuramente anche il radio che hanno fatto qualche modifica l'hanno vinto, però strano perché hanno venuto come nuova questa radio. No, li fanno così proprio, ci sono state tutte queste radio di questa serie, sono rotte e non sono riusciti a aggiustarle perché non ti danno il manuale di servizio, è una ditta francese che li fa. Sarà oggi compreso io come te. Con quelle schede o quei componenti piccolini, una cosa cagata, dai. Eia. Molto piacevole. ti sto dicendo che ce ne sono stati parecchi che si sono rovinati, e sì, ci sono con la scheda storta nel telaio, hanno messo come il mio. Io l'ho comprato nuovo da negozio, aveva una garanzia e lo scontrino, mi avevi spedito, mi avevi tutto, e quindi direi padre che non funziona. Scusa, ma tu hai preso quella radio, funzionava la radio, non è che non funzionava, usciva bene quella radio, mi ricordo, e che usciva bene, infatti è un piccato. La poi si è rovinata così di colpo, è uscito questo innesco e non la puoi usare, perché innesca quando schiacci la portante. Ehi già, che devono entrare avanti. Ehi, sto uscendo, ho cambiato radio. Aspetta Marco, stai arrivando 9:10, come va, cosa hai fatto? La radio è più bassa questa, questo è un apparato omologato e sono liscio, con i 3 watt e mezzo modulati. Ah no, a Natalino volevo chiedere, ma è Natalino 3009 e componenti classici, non SMD. Forse Franco aveva capito SMD, componenti piccoli, invece no. No, però la scheda è di un Cobra, non è del 3009. Il modulatore non è quello a pettine che ha il 3009 originale. È piccolino questo modulatore. Poi è una ditta francese che li costruisce. La scheda è del Cobra, non è del Cobra 148, mi va una cosa del genere, mi aveva detto. Non è del 3009 la scheda, è diversa, la scheda madre, capito? Poi te lo faccio vedere, è aperto, se tu vieni Marco, mi dici vero è. E tutti le hanno piazzate quelle schede, tutte storte nello chassis. Ma a me sembra una cosa così strana, è come che avessero trapiantato una scheda di un altro apparato in quello chassis. Però è strano che le facciano di serie, io non ne avevo mai letto. Io sapevo che i 3009, per quanto vecchi, avevano sempre la IPT 3006, sempre aggiornata, modificata nel tempo, no? Con i piccoli aggiornamenti, però era sempre quella. E lì è come che avessero fatto una cosa fatta a casalinga, fatta da loro, da quel venditore farabutto lì spagnolo. No, è una ditta francese che li costruisce, Marco, è una ditta francese e non ti dà il manuale di servizio, se no l'avrebbe già aggiustato quella persona. Lo schema l'abbiamo buscato, però non abbiamo buscato il manuale di servizio, è per quello che non l'ha potuto aggiustare, non è riuscito a togliere l'innesco, manco per le scatole, ce l'ho qua, me l'ha tornato perché non c'è nulla da fare. Ho capito, allora sono quelli della CRT, li facevano fino a 10-15 anni fa, e avevo sentito che erano ambigui un po' come scheda, come funzionamento, era un po' strano, hanno detto. E ho capito, praticamente non è il vero 3009, e hanno fatto una specie di accozzaglia di cose strane. Va bene. Natale, questo è un omologato che era fermo, pensa, non lo usavo dall'inverno scorso questo apparato. È omologato, c'ha pochi watt, vabbè, il bello che c'è in macchina, anche sia che tu parli vicino al mic così, sia che tu parli col braccio tutto allungato, la modulazione bene o male rimane quasi costante. E no, si è abbassata quando ti sei allontanato, Marco. Sì, infatti ho detto quasi, diciamo che in macchina urlo, ecco perché rimaneva costante. In macchina, con i rumori della macchina sembra bozzi. Va bene, poi il microfono è il condensatore, va bene, riprendi Antonio. Questo è un CRT, per rimanere in CRT Mega Pro, e c'ha il microfono con i tasti tipo un bibanda. Se tu lo vedi sembra un piccolo veicolare bibanda. C'è i tasti per come bibanda, e 2 levette, già avete capito, no? Tipo IAES o roba del genere. È un bel strano vedersi. Qua non c'era all'epoca, l'ho ordinato dalla Francia, dal sito CRT France, perché qua non c'era in Italia. Questo c'ha come opzioni speciali dei subtoni, che è quello che mi interessava a me, di subtoni per sentire solo l'interlocutore, più altre fesserie che però sono di uso tipo lo shift per i ponti, per i 10 metri, però quelle sono funzioni se lo disomologhi, capito? Se lo espandi di bande, io ho preferito tenerlo normale. Io sto utilizzando l'ala 48, sto utilizzando quello originale. Questo mi, Natalizio, lo metti in macchina, sembra un VHF, un bibanda. E se metto con l'antenna bibanda, quella, come si chiama, no bibanda? Quella antenna CB che sembra una bibanda. Mi fermano e credono che c'è via un apparecchio amatoriale. Invece no. Chi è? Forse qualcuno da lontano. Perché io l'ho squarciato, non mi ero reso conto se parlavano. Ovviamente, ora dipende. Ma no, io lo sento benissimo. Vabbè. Se qualcuno da molto lontano mi sta facendo le prove. Mi era anche Coca-Cola. Sì, sarà il solito che fa i gargarismi. Quello che entra sugli esce sempre. Oia, oia, Ario, hola. Però ce la così sta. Ah, è quello lì, Sì, è propagazione, è propagazione. Ma c'è qualche bambino lontano adesso. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Ciao Marcolino, ciao Antonio. C'è Natalino e Franco, c'è anche. Come la radio, Marcolino? È un bel forte. Naturalmente sto usando un baracchino diverso, quindi non è uguale alle altre ricezioni la mia oggi. Ecco, sto usando lo sciure, dai, quello che avevo messo in parcheggio tempo fa. Lo sai che stavo per chiedertelo se era quello. Ecco, c'è questo. Sempre lui. Benissimo. Mi ricordo che a seconda dell'apparato in cui lo mettevi lo regolavi talmente forte che non si capiva quasi. E ti chiedevano di abbassare, anche io te l'avevo chiesto una volta. Non so se te lo ricordi. Già me lo ricordo. Penciola! Ciao Mario! Alla pace dei vostri! Forza a tutti! Buonasera a me! E benci con me! Dai, vi ascolto che sto aspettando, dai! Cosa è pescato? Aspettando! Sì, comunque Marco lì! La monta molto bene questo apparato, questo microfono! L'apparato cos'è? Il Grant? No, come si chiamava? No, l'avevo piazzato sul Galaxy prima. Ah, prima? Ma no, ma dico, adesso ce l'hai su quel presidente famoso? No, adesso su Lafayette. Vabbè, da, ce ne sono tanti modelli, ma nuovo, cioè recente o d'epoca? D'epoca. E il modello, Lafayette? Lafayette, non si legge bene, è cancellato. Natalino, sei caduto? Cacchio, 6:30, passate. Forse Natalino sta cucinando, non mi ero accorto dell'ora, cavolo. Sì, senz'altro sta cucinando. Sì, dopo cucineremo anche noi, ancora il chitto, però. Dopo cucineremo anche noi qualcosa. Domani ricovero la macchina. Dovremmo tirare un meccanico. Carta, scatto dallo sterzo. Sì, l'ha bisogno, umida, sì. Io pensavo che era una scatola piccolina. Prende da una ruota all'altra, ragà. Ma cos'è? Il manuale? Com'è questa scatola? Idraulica o normale? Com'è? Idraulica. Addirittura c'erano certi che revisionavano la cuba proprio. No, se è rivisionata bene, va bene, sì. Rivisionava proprio la tua, cioè ricambiavano tutto, tutto, ricambiavano e tornava nuova. Troppi fossi qua, un casino, eh. C'era anche Franco. Vediamo se riprende. Franco. La calma mano la vedo un po' di ghiaio che è marasolo, pure di chi sa asfalto recuperato. Cosa tu? Anche di quell'asfalto recuperato, non voleva qualche nulla a fare i buchi. Quelle erano tappati una volta alla settimana, ma se poi passano correndo, i buchi si riformano. Guardi la futti nuda, le padrone, i currinocchi, hanno sempre fatto così. Tanto ciò dice lì, se si rompono le macchine le aggiustano. Aspetta, capire che fa fatti freddo. Ci vorrebbe qualche un po' di materiale duro sotto, tipo marma, roba così. Ma ancora non l'ho qua capito, non gliene frega niente. Manuele, cazzo di ai pari due. Guardi la sentenza che nata. Sta affettando. Ma Pomponio non è rientrato più, no? Chi l'ha sentito? Marco di quando entra Pomponio. No, c'era, vabbè, presto, adesso è passato un bel po' di tempo. Che mi stava chiedendo di queste radio che parlano con tutto il mondo, che poi non sono radio. Praticamente sono degli smartphone con la buccia di radio. Dentro c'è uno smartphone e si collega a internet, è come usare Zellomi, una cosa del genere, alla fine. E poi sono per uso amatoriale, l'ho trovato adesso, volevo dirgli qualche particolare tecnico, ma non l'ho più sentito da un po'. È andato via presto, vabbè. Ci aveva la bocca legata. Aspetto lì, scandisci bene le parole, che già è un problema di orecchio mio anche che non sento bene. Ho detto a Pomponio, quando parla, è un po' la lingua legata. E dipende dal grado di ebbrezza. Infatti glielo dico, Antonè, certe serate lo sento che ripeto, a un certo punto ho detto vabbè Antonè dai, non è cosa, ci sentiamo in condizioni migliori. E poi si capisce subito, Madonna, che il gomito. A un certo punto. Io, ripeto, ma io sono a stringere, non bevo. Però ne avevo tra vergogna, è simbriaco entrambi. No, embriago no, allegro, contento, dai, carburato, come dire. Ma più che allegro. Vabbè, sono l'opposto. Io guarda, se proprio devo bere un cicchettino a stomaco pieno, tipo un dito di limoncino, però io al di fuori del pasto non prendo nulla, anzi prima ero ancora peggio, non nulla, nemmeno fuori nemmeno durante i pasti. Ma io oggi a pranzo mezzo bicchiere di bracchetto me lo so bevuto. Sì, ogni tanto ci vuole, io più che altro digestivi prendo, può essere un limoncino, può essere un mirto, può essere un amaro, però al di fuori dei pasti è tabù, non esiste proprio, no? Se mi beccano, te ne immagini, guidando o in macchina e moto, poi mi tirano la patente, devo stare mesi a piedi, no, non esiste, no. Capirai, qua se invece bevo io, invece mi trovano a me, io avete campagna a piedi, è un casino da qua, Ma perché la patente ci vuole per guidare la macchina? No, per guidarla no, magari per non farcela sequestrare, sì, ci vuole la patente. Troppo fiscale tu, Marco. Io a 14 anni c'avevo la macchina, però la patente non ne avevo. E andavo in giro lo stesso. Ma in caso di controlli, oia. Ma cosa controlli? Pirati bisogna essere. In tutto, pirati, quindi tutto, macchina, radio, tutto. Tutte cose. Tutto, anche. Chiedere, ma l'avevate sentita questa, se non è una fesseria, questa proposta di legge che dice che dopo i tipo 68 anni o dopo i 70 non rinnoveranno più le patenti? L'avete sentita o è una cavolata? È una grande e grossa bufala, piace su internet. Ah beh, mi stavo già spaventando. L'ho letta così di striscio, sai che ti è arrivata con la mondezza, no? Che la chiudi subito. E credo che fosse una cosa vera. Ho detto, magari gli anziani li vogliono privare della patente per evitare incidenti, no? Che però, in realtà, vabbè, se uno non è proprio un novantenne di mammito, non dovrebbe dare problemi. Ma intanto quando fai il rinnovo ti vedo se sei...